Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e 9 minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana. I temi di questa giornata economico-finanziaria, beh, chiaramente il tema più importante riguarda l'impatto sull'economia delle misure annunciate dal governo, ed è un impatto che si va a concentrare principalmente su chiaramente la ristorazione, i bar in parte, palestre e attività, gli spettacoli. Perché lo dico? Perché ne parleremo ampiamente, intanto per capire quale sia il, chiamiamolo così, decreto ristoro a cui sta pensando il governo. Il Consiglio dei Ministri è previsto per domani. Conte, il Presidente del Consiglio, ha annunciato, e l'ha ribadito oggi anche il Vice Ministro Castelli, vi sarà un fondo perduto, Conte ha annunciato, direttamente gestito dall'Agenzia delle Entrate. Questo è un elemento importante perché sappiamo che nel fondo perduto del decreto Cura Italia, se non ricordo male, il decreto rilancio, scusatemi, ha funzionato abbastanza bene, direi bene, stante tutte le segnalazioni che abbiamo ricevuto, il fatto che fosse il ristoro fosse in mano all'Agenzia delle Entrate, a differenza di quanto avvenuto invece per altri versi con l'INPS. Ricorderemo anche che cosa valeva quel decreto, cioè si andava a dare un fondo perduto a chi avesse avuto un calo dei ricavi di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo del 2019. In quel caso il dato era relativo solo al mese di aprile, e quindi se tu avevi avuto un calo di oltre il 33%, fino a un fatturato di 400.000 euro ti veniva dato il 20% della differenza, fino a un fatturato di 1 milione di euro ti veniva dato il 15% della differenza del mancato guadagno, del mancato ricavo, scusatemi, e fino a da 1 a 5 milioni ti veniva dato il 10%. Praticamente se l'impresa X ha fatturato nel 2019 350.000 euro e quindi nel mese di aprile ne aveva incassati l'anno scorso 32.000, se nell'aprile 2020 eri scesa a 5.000, la differenza di 27.000 euro, alla differenza di 27.000 euro veniva applicato il 20%, perché in questo caso era un fatturato inferiore ai 400.000 euro. In quel caso l'impresa avrebbe avuto 5.400 euro a fondo perduto. Vedremo come sarà in questo caso concentrata sulle categorie colpite dal nuovo DPCM, e parleremo appunto sia del tema ristoro sia della preoccupazione delle categorie. Allora, l'impatto complessivo è ancora da stimare, perché la perdita più consistente, da quello che si è capito, interesserà il settore dello sport, quindi 3 miliardi di euro per 25.000 imprese, aziende sul territorio. I pubblici esercizi in Italia sono 340.000 e avranno un danno diverso in 2 miliardi e 700 milioni secondo la FIPE, che li rappresenta. E poi però vi sono anche danni indiretti, e qui ci sono alcune domande che lascio, diciamo così, agli ascoltatori, perché non so veramente. Allora, dal decreto emerge chiaramente che il danno più grosso, al di là delle attività di palestre e chiaramente cinema e teatri, arriva sui ristoranti, perché dire la chiusura alle 18 significa che molti ristoranti nemmeno aprono, perché non ce la fanno a gestire solo con il pranzo, mentre il settore dei bar ha un danno, ma ce l'ha minore. Non sfugge a nessuno che la chiusura di molti bar alle 18, per bar soprattutto che non lavoravano con la sera, ma quello lo davamo già per scontato, è un danno relativo. Molti bar chiudono alle 19:30, non bisogna essere un grande economista per sapere questo. È vero che sono già penalizzati dallo smart working, ma questo vale anche per i ristoranti a pranzo nelle grandi città. Per cui intanto c'è una sperequazione tra il danno che viene arrecato alla ristorazione rispetto al mondo dei bar. Poi, una cosa che a alcuni sfugge, anche tra chi mi sta scrivendo, attenzione, il problema non è, sì, del settore ristorazione, ma il settore ristorazione porta con sé tutta la filiera dell'agroalimentare, vitivinicolo e agroalimentare, e lì viene stimato da Coldiretti un danno di circa 1 miliardo di euro. Lo spettacolo, invece, il settore spettacolo è 90 milioni di euro, e vi potrebbe essere una riduzione dei consumi a famiglia, ma qui il calcolo del Codacons 210 euro a famiglia in meno, però di spese. Questo uno potrebbe anche dire, vabbè, almeno sono risparmi. Il problema, poi c'è tutto il tema degli eventi fieristici, sono d'accordo, che sono in ginocchio, anche perché praticamente la maggior parte, anche quelli che potevano, li stanno facendo. Dopodiché, anch'io non capisco alcune cose e le segnalo prima di partire con le notizie in breve. Uno, non capisco perché adesso si indichi alle scuole, quelle che sono aperte, perché la maggior parte delle regioni vanno verso la didattica a distanza al 100% o al 75% come chiesto sulle superiori. Non ho capito perché sulle scuole adesso si dica di l'orario di ingresso non prima delle 9 di mattina. Anche qua ci si poteva pensare un po' prima, non voglio tornare con le polemiche con la Zolina, però abbiamo parlato solo di banchi con le rotelle per dei mesi, ma forse capire che se le scuole entrano con i pendolari creano affollamento sugli autobus, ci si poteva arrivare anche prima e dire le scuole dalle 9 di mattina, dalle 10 con molto pomeridiano, in modo da in qualche modo dilazionare gli ingressi e non avere l'affollamento sui mezzi. In secondo luogo, la cosa che dà molto fastidio è che non c'è ancora un elemento scientifico per capire se i luoghi di contagio sono i mezzi pubblici, le scuole, non sembra, stanti i dati che abbiamo a disposizione, le riunioni, diciamo, conviviali, soprattutto dei ragazzi, oppure i ristoranti. Cioè non si capisce quale sia la logica. Faccio notare che molti ascoltatori mi hanno segnalato che però mancando il coprifuoco in molte regioni, non in Lombardia dove dalle 23 in poi non si circola se non per motivi di necessità, può tranquillamente accadere che molti, non dico solo i giovani perché possono farlo anche i meno giovani, però si incontrino a casa e sostanzialmente potendo circolare anche la sera e anche la sera tardi. Altra cosa che non capisco sul tema, sì, qualcuno mi dice dovremmo isolare le persone più a rischio, le persone più anziane. Sì, altra cosa che non ho capito. E poi sulle scuole, anche qui non si poteva riuscire a pensare a una formula un po' diversa negli scaglionamenti, perché veramente adesso ogni regione sta andando per i fatti suoi. Poco fa il Trentino ha detto che chiuderà i bar alle 20, i ristoranti alle 22. Allora, altri mi fanno notare, ma mi scusi, un bar ha un ristorante a pranzo è meno infettivo che a cena, anche questo è obiettivamente non si capisce. Io aggiungo, ha senso tenere i ristoranti aperti la domenica a pranzo quando sappiamo che soprattutto nelle città di provincia, ma non solo, c'è l'abitudine dei pranzi collettivi, quindi rischi di avere un grande affollamento? Non capisco nemmeno questo, perché la domenica sia pranzo ma non la sera del lunedì a cena. Insomma, ci sono un po' di cose che non tornano, e anche perché non si sia scelto di bloccare invece l'attività la sera, perché secondo me se poi c'è il problema dei contagi tra più giovani dovevi bloccare la circolazione a certa ora di sera, come avviene in Lombardia, come avviene anche in Piemonte o nel Lazio. Detto questo, andiamo a raccontare le altre notizie in breve. Sì, e tra l'altro anche sulle scuole ha ragione chi mi dice, ma non si poteva fare un trattamento diverso per le prime superiori, insomma sti ragazzi, rispetto a chi è anche più grande, parlo agli ultimi anni della scuola media superiore. Ho visto che in alcune regioni si era scelto di dire solo, diciamo, dal terzo anno in poi. Beh, qui c'è un tema, è chiaro che il ragazzo che arriva dalle medie, già ha fatto le medie inferiori a metà, arriva in una nuova classe con le mascherine, forse dovevi tutelare di più, ed è anche più piccolo, perché non sfugge a nessuno, ma qui andiamo veramente nel buon senso, che lasciare a casa un ragazzo a 17 anni è una cosa, lasciarlo a 14 è un'altra. E comunque c'era anche un tema di esperienza della classe, non lo so, mi sembra che sia molto molto con l'accetta, come si dice in gergo, sto decreto, cioè non vada a distinguere caso per caso, mentre secondo me bisognava andare a distinguere caso per caso. Però ripeto, molti ristoratori mi stanno scrivendo, ma scusatemi, noi abbiamo messo in atto tutte le misure di distanziamento, che colpa abbiamo? Altri mi dicono, guardate che nel liceo di mia figlia era già tutto organizzato bene, c'erano gli scaglioni molto distanti, un gruppo entrava la mattina, un gruppo entrava al pomeriggio. Anche lì ti chiedi, vabbè, perché le scuole superiori? Sì, anche il tema dei banchi. Io non voglio tornare al tema dei banchi, però abbiamo perso tanto di quel tempo su sti banchi con le rotelle, e nessuno si occupava del trasporto. Lo so che non è il ministro Azzolina che si occupa del trasporto locale, so che sono le regioni e anche il ministero dei trasporti, ma c'è stato un chiaro ritardo su questo, dai, inutile girarci attorno. Che poi questo ritardo fosse collettivo nel paese, sono d'accordo che probabilmente tutti noi ci siamo rilassati, o chi più chi meno, ad agosto e a settembre, però è diversa la responsabilità del privato cittadino che si rilassa rispetto alle autorità sanitarie anche politiche, anche di base locale, che devono dirti no, attenzione, non ti puoi rilassare, cioè sennò tutto vale tutto, dai, si chiama limitazione, ho capito che si chiama limitazione, sto solo pensando a se questa limitazione potesse essere articolata ancora meglio. Mi sembra un po' tranchant come limitazione, però guardate, non le scuole superiori perché ci possono andare da soli, sì, per carità, ho capito il tema però anche lì abbiamo valutato qual è la cosa vera che lascia anche il sottoscritto privo di qualunque capacità di analisi, ammesso che io ce l'abbia, è che non sappiamo se veramente i ristoranti avessero tassi di contagio più alti rispetto a un bar fino alle 18, o magari con gli anziani, non ce l'ho con gli anziani, però è chiaro che insomma, se dobbiamo proteggere le categorie a rischio, no, non lo sappiamo, non sappiamo se sulle scuole veramente il problema, oppure erano i trasporti pubblici, non abbiamo nulla, e adesso scopriamo anche che di fatto il tracciamento sostanzialmente è saltato. È ovvio che qualunque provvedimento prendi ci sono scontenti e sbagli sempre, a scontenti qualcuno e sbagli sempre, però forse qualche dato in più. La Francia nel frattempo sta valutando, lo ha detto il presidente del Consiglio Scientifico francese, due opzioni: o un coprifuoco più massiccio a livello sia di estensione geografica, in Francia il coprifuoco alle 21 vale solo per circa metà del paese, 40 milioni di persone come numero, ma geograficamente metà del paese, sia un lockdown meno duro di tipo irlandese. In entrambi i casi le scuole dovrebbero restare aperte, così il presidente del Comitato Scientifico francese, che si stima comunque che la seconda ondata possa essere più forte della prima. Per quello che riguarda invece gli indici macroeconomici, l'indice sulla fiducia delle imprese in Germania, faccio notare che è salito anche a ottobre sopra le stime, da 89 punti previsti a 90,3. Veniamo all'Italia. Standard & Poor's ha confermato il rating sovrano a BBB, ma soprattutto ha migliorato la prospettiva da negativa a stabile. Questo ha permesso di abbassare i rendimenti ulteriormente, cioè più basso, cioè migliora il voto che danno al tuo debito, più riesci, meno riesci a offrire per trovare finanziatori al debito stesso. E ancora, per quello che riguarda i BTP a 2-3 anni, siamo ai minimi storici, meno 0,37% a 2, meno 0,26% a 3, meno 0,26% a 2 anni. Allora, i dati di oggi, sappiamo che i dati di lunedì sono sempre falsati dal minor numero di tamponi che viene fatto la domenica, però il punto è molto semplice, che sono scesi da 17.000, ma ci sono stati 40.000 tamponi in meno e invece 141 vittime per quello che riguarda i dati di oggi. Adesso sto guardando anche le terapie intensive e per quello che riguarda i dati più clinici, cioè scusate, eccolo qua, 17.000, il numero di tamponi sono 40.000 in meno rispetto a ieri, appunto. Allora, nel frattempo, pochi istanti fa, l'Organizzazione Mondiale per il Commercio ha autorizzato formalmente l'Unione Europea a imporre dazi per 4 miliardi di dollari sui prodotti americani nella vicenda Boeing Airbus. Prima aveva dato ragione a Boeing, quindi l'America ha messo 4 miliardi di dazi su prodotti europei, soprattutto francesi e tedeschi, per gli aiuti di Stato dati a Airbus. Adesso dà ragione a Airbus e quindi condanna Boeing. In realtà, scusate, a noi dà la possibilità di mettere 4 miliardi di dazi ai prodotti americani, agli Stati Uniti mi diede la possibilità a ottobre di mettere 7 miliardi e mezzo di dazi. Dice la WTO, la cosa migliore sarebbe un accordo tra Stati Uniti e Unione Europea. I mercati finanziari oggi sembrano prendere atto del scenario, insomma, in peggioramento in Europa ma anche negli Stati Uniti. Perché lo dico? Perché il Dow Jones sta perdendo il 2,60%, Parigi l'1,80%, Francoforte va male oggi, meno 3,60%, Londra meno 1%, Milano tutto sommato è nella media con un meno 1,66%, di positiva c'è Fiat Chrysler, più 1 Inuit, più 1 di Assorin, più 0,60, negativa Moncler, meno 5, Buzzi, meno 3,70, Nexi, meno 3,70, come Pirelli, Prismia, meno 3,20, Leonardo, meno 3,15, Azimut, meno 2,80, come Eni e Tenaris, il 2,70 lo perde Fineco, il 2,5, Ferrari e CNH e anche Era, Banche Generali, meno 2, e ST Microelectronics, meno 2, come Italgas. Ecco, anche i dati sui ricoverati con sintomi sono 991 in più, in terapia intensiva sono 76 in più per un totale di 1.284 persone attualmente in terapia intensiva e 13.000 ricoverate nel paese. Sappiamo che la soglia sulle terapie intensive definita, diciamo, critica è di 2.500 terapie intensive per Covid. E a questo proposito, in realtà su piscine e palestre ha detto oggi il vice ministro della salute Pierpaolo Sileri, ospite di Radio 24, 24 mattina con Simone Spezia, 24 mattina, ha detto immagino che i dati siano in possesso del CTS, ma io non li ho visti. Beh, guardi, i dati immagino che siano in possesso del comitato tecnico scientifico. Ma lei li avrà visti, lei li avrà visti, Sileri, o no? No, guardi, io i dati non li ho visti, i dati vengono presentati, come ben sapete, nel fine settimana, quindi tra il giovedì e il venerdì, ma l'analisi accurata delle varie attività, eccetera, immagino siano in seno al comitato tecnico-scientifico, ma diciamo quelle che ricevo io sono delle analisi molto accurate e generali. Immagino però che tutto questo poi abbia dietro anche un'analisi divisa per settore. Immagino proprio che il CTS, ma ancora di più l'Istituto Superiore di Sanità e chi coordina ovviamente la raccolta dei dati, abbia tutte le attività di contact tracing che consentano quindi di capire qual è l'origine del contagio e tutta la catena di contagio, quindi stabilire con una certa sicurezza, che ovviamente capite che spesso una catena di contagio questo sfugge, quelli che sono i rischi stimati. Ma questi dati provengono dalle regioni, quindi attenzione. Al CTS, all'Istituto di Sanità, giungono i dati provenienti dalle regioni, quindi questi sono dati che vengono convogliati al centro, ma sono già o dovrebbero essere già in possesso delle regioni, e prodotti dalle regioni. Oh. E poi sempre Sileri ha detto: i numeri non mi preoccupano, non sono molto preoccupato dai numeri, il contagio è chiaro, ma mitigare la curva, non c'è un sistema ancora sovraccaricato, a questo serve mitigare la curva, non è previsto un altro DPCM. Al momento non è in previsione un altro DPCM, è chiaro che continua l'azione di monitoraggio. Ora, ovviamente critiche sono state fatte perché sono stati due DPCM ravvicinati, però i numeri sono passati quasi raddoppiando da una settimana all'altra, con alcune aree del paese nel quale è oggettivo il sovraccarico dei servizi, e quindi è chiaro che era necessario procedere a un atto che consentisse di mitigare quella che è la curva dei contagi e proteggere quindi quelle che sono le nostre strutture, il nostro servizio sanitario nazionale. Io, a dire il vero, non sono molto preoccupato dei numeri, o meglio, i contagi ovviamente ci sono. È chiaro che più circola il virus, più è probabile che soggetti più o meno giovani vanno a impegnare i nostri servizi sanitari nazionali, e quindi diciamo vi è poi un rischio di sovraccarico. Questo ancora non sta avvenendo, e quindi mitigare la curva significa ridurre quanto più possibile la circolazione del virus a una forma che possa essere contenuta. Ma vede, le misure, questo io l'ho sempre detto, dovranno a mio avviso essere declinate a livello locale. Non ci troviamo nella situazione di marzo, cioè a marzo abbiamo avuto un boom chiaramente di contagi e di impegno della terapia intensiva e degli ospedali, ovviamente in pochissimi giorni. Le persone non riuscivano a fare tamponi, ospedali sovraccarichi, non ci troviamo in questa condizione. Però è possibile che in alcune aree del paese, se il virus dovesse circolare ancora di più, questo possa accadere. Allora, andranno declinate delle azioni a livello locale, e per locale intendo dire anche chiusure, anche la chiusura di una città, di una regione, prendere fiato, e per fiato intendo dire cercare di organizzare il sistema e poi ripartire. Dunque, mi scrive un ascoltatore: guardi che è scorretto parlare di prima, seconda o terza ondata, l'ondata è sempre la stessa, per quanto sapere dove ci si contagia di più o meno è praticamente impossibile, non c'è riuscito mai nessuno con assoluta certezza. Allora, per quello che riguarda invece la Farnesina, ha sconsigliato oggi i viaggi all'estero a tutti i connazionali, se non per ragioni strettamente necessarie. Ha detto: considerato l'alto numero di contagi in molti paesi europei, non si possono escludere future ulteriori restrizioni agli spostamenti, che rischierebbero di complicare eventuali rientri in Italia. Ma io penso che non ci sia nessuno che in questo momento vuole andare all'estero per così diletto, no, al massimo per lavoro. Il presidente di Confindustria Bonomi ieri a Rai 3, mezz'ora in più: temo che i numeri saranno fortemente colpiti dalla situazione attuale, un 1-2% in più del PIL, quindi -11-12%, un danno per l'economia di 216 miliardi, superiore quindi a tutti i fondi del recovery. Nessun coinvolgimento da parte del governo, deve cambiare metodo, e ha detto attenzione poi a dire che sono già pronti i ristori, perché abbiamo ancora 12.000 persone che aspettano la cassa integrazione da maggio, e non vedo una direzione, faccio fatica a capire qual è la direzione, ci siamo fatti trovare impreparati. Io penso che il governo debba ascoltare di più le parti sociali. Adesso non è tanto i 3 DPCM in 12 giorni, è che nessuno è stato coinvolto, nessuno sapeva quali erano i provvedimenti, nessuno ha potuto contribuire a dare aiuto al governo in una fase difficile del paese. Io credo che il governo debba cambiare il metodo. Ad aprile, dicevamo, il trasporto pubblico locale sarà uno dei grandi problemi. Dopo 6 mesi siamo ancora qua fermi, non siamo intervenuti, e lo sapevamo: scuole, sanità, trasporto pubblico locale, ci siamo fatti cogliere impreparati, e questa volta lo sapevamo. Allora, tra l'altro, l'assessore a mobilità del comune di Milano, Granelli, a questo proposito ha detto: negli ultimi giorni della scorsa settimana eravamo al 41% dei passeggeri, 600.000 persone al giorno rispetto a 1.400.000. Il punto, temo, è che è chiaro che c'è un calo dei trasporti, nei passeggeri, ma se tu poi nei momenti di picco rischi di avere più o meno le stesse persone, basterebbe anche l'80%, perché abbiamo visto le immagini, insomma, probabilmente nella media della giornata sei sotto. Il problema è capire quanto sei a quanto eri a sto punto, dalle 7 alle 8, dalle 6 e mezza alle 8 e mezza. Questo mi sembra il punto. Comunque, allora andiamo adesso sul meteo, la pubblicità. C'è una notizia che riguarda invece la fusione Fiat Chrysler e Peugeot Citroën. L'autorità antitrust europea potrebbe anticipare il via libera, quindi si va verso una decisione positiva sulla fusione. C'era il tema infatti dell'antitrust. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Adesso andiamo, e poi c'è la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Andiamo sul meteo e poi cerchiamo di capire verso quale DL ristoro si stia orientando il governo, la borsa e l'appuntamento con Alessandro Platerotti come ogni lunedì, e poi facciamo parlare chi rappresenta i pubblici esercizi. State ascoltando un programma offerto da Columbia Threadneedle Investments. Il vostro successo è la nostra priorità. Focus Economia. minuti. Dunque, ho ricordato in apertura come funzionava nel decreto rilancio il fondo perduto, che in sostanza andava a dare dal 20% fino al 10% del mancato guadagno in chi avesse perso più del mancato ricavo più del 33%, e divideva tra aziende con un fatturato fino a 400.000 euro, altre da 400.000 a 1 milione, altre da 1 milione a 5 milioni. E tu avevi dal 20% della differenza di quanto perso, a patto che fosse superiore al 33%, ti veniva dato dall'Agenzia delle Entrate, ed ha funzionato abbastanza bene perché l'Agenzia delle Entrate è stata più veloce. Gianni Trovati del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Allora, il DL Ristoro che è stato annunciato dal Premier Conte, e quindi se ho ben capito dovrebbe avere un doppio binario, cioè un rimborso più elevato per quelle attività che da oggi dovranno sospendere la loro attività, come cinema, sale gioco, bingo, palestre, centri sportivi, piscine, e un ristoro più ridotto per quelle attività obbligate a chiusure limitate, come bar, ristoranti e pub, che potranno proseguire oltre l'orario di chiusura pubblico solo con servizi di asporto. La stima complessiva è di almeno 3-4 miliardi per quello che riguarda il DL Ristoro, ma ho ben capito che poi si dovrebbero aggiungere altri 1,5-2 miliardi per il fondo perduto? Allora, si dovrebbe, premesso che tutti questi numeri sono su una girandola, sì, certo, di riunioni, perché naturalmente fare un decreto in due giorni non è semplicissimo, e soprattutto siamo a fine anno, quindi gli spazi di finanza pubblica, pur nel disastro diciamo generale, sono quelli che sono. L'idea è che si stia costruendo e sia destinato ad arrivare domani in Consiglio dei Ministri un decreto che potrebbe cubare intorno ai 6-7 miliardi tra una replica diciamo del fondo perduto, che andrebbe a costare tra i 3 e i 4 miliardi, e un intervento di allungamento della cassa integrazione per evitare i buchi in quelle aziende che al 15 novembre vedrebbero sostanzialmente esaurita la loro quota, e poi qualche altro intervento minore sul piano dei costi complessivi, cioè la nuova edizione del credito d'imposta per gli affitti commerciali, la sospensione con contestuale rimborso ai comuni della seconda rata IMU per i negozi più colpiti, eccetera eccetera. Comunque il grosso, intorno ai 3-4 miliardi, dovrebbe essere questo fondo perduto bis, con il doppio binario che dicevi tu, e a cui aggiungiamo un altro doppio binario. L'altra differenza rispetto alla prima volta è che la prima volta il tutto era limitato alle aziende, ai negozi, alle partite, agli autonomi, bla bla bla, fino a 5 milioni di euro di fatturato. Questo limite dei 5 milioni dovrebbe scomparire, anzi scomparirà, perché lo ha detto espressamente il Ministro dell'Economia, e questo comporta un doppio funzionamento, perché chi sta sotto i 5 milioni era già stato interessato dai rimborsi, diciamo, della primavera estate, quindi non dovrà verosimilmente fare nulla, dovrà semplicemente aspettare il nuovo accredito sul conto corrente dove era arrivato il primo accredito, e il tutto dovrebbe risolversi nel giro di un paio di settimane massimo. Gli altri invece, non essendo, diciamo così, nelle banche dati del fondo perduto, perché non hanno partecipato alla prima edizione, dovranno fare una domanda, aspettare la risposta, e quindi ci vorrà un... Però scusami Gianni, io non ho capito una cosa, perché è vero, ad aprile però era tutto chiuso, nel senso erano chiusi anche i negozi, non so, le profumerie, i parrucchieri, era chiuso tutto, e quindi il fondo perduto si applicava praticamente a tutto, quasi, il mondo del commercio, soprattutto erano aperti solo i negozi alimentari, no, per cui adesso invece il però speriamo che non dobbiamo cambiare idea, ma resta tutto aperto tranne bar, ristoranti, poi palestre, come citavo io, centri sportivi e quant'altro, cioè molto più limitato il numero di categorie. Quindi sì, da quello che si è capito, il governo andrà a intervenire poi sulle categorie, cioè voglio dire il negozio di abbigliamento, che in questo momento può operare tranquillamente senza limiti di orario, tranne i centri commerciali fine settimana, il parrucchiere famoso, perché se ne parlò molto, che opera come prima, non dovrebbe rientrare nel ristoro, o no? Infatti la platea sarà molto ridotta, si parla di 350.000 soggetti, mentre l'altra volta in primavera furono più di 2 milioni. Okay. Questo determina il fatto che il totale dell'operazione costa meno, appunto si parla di circa 3-4 miliardi contro i 6,5, 6,2 miliardi. E che periodo devi portare come riferimento? Perché anche qui sappiamo, lo dico perché molti ristoratori mi hanno scritto, che i fatturati loro andavano abbastanza bene negli ultimi mesi, luglio, agosto, settembre, anche nelle città, chiaramente più la cena che il pranzo per via dello smart working. E che periodo verrà considerato, se tu l'hai capito? No, questo non è ancora stato detto, ma con il meccanismo che si prevede, cioè di ristoro automatico, da quando scatta il DPCM, dici tu? Senza domanda, per chi ha già ricevuto l'indennizzo dell'altra volta, vuol dire che tu sei già nell'elenco, diciamo così, perché eri un ristorante ad aprile. Ricordiamo che nella prima edizione il parametro era il fatturato di aprile su aprile dell'anno prima, la differenza percentuale. Quindi tu sei un ristorante, sei stato imbarcato nel primo treno, quello dei rimborsi di aprile e maggio, continui ovviamente a essere un ristorante anche adesso, sei quindi nelle categorie colpite dal DPCM domenicale e di conseguenza avrai un ristoro. Quindi conta il codice discorso delle categorie, il codice Ateco esattamente, più che appunto un parametro di perdita di fatturato che invece è già nelle banche dati. Ok. E quindi quello che però si dice è, per capire il ristoro, cioè per le categorie nel codice Ateco, quindi ristoranti, bar, palestre, piscine, e vado anche fiere e tutto il meccanismo fieristico, catering e quant'altro, cinema, teatri, prendi i fatturati che vanno sostanzialmente dal 26 di ottobre fino a quando il decreto è in vigore, 23, se non ricordo male. No, ti ripeto, io penso che il fatturato a questo punto non venga più considerato, nel senso che cioè la perdita nuova di fatturato, che è impossibile ovviamente calcolare puntualmente caso per caso, sarà determinata per categoria, cioè tu sei un esercizio commerciale a cui il DPCM dispone la chiusura totale, ti darò un indennizzo più alto. tu sei un esercizio commerciale per il quale il DPCM dispone una chiusura parziale, appunto i ristoranti, ti darò un indennizzo più basso. Ma perché non a me sembra più corretto però il fatturato. Faccio un esempio, cioè voglio dire, c'è un ristorante che magari riesce, con lo smart working è difficile, ma magari per il suo posizionamento riesce a lavorare ancora meglio, ancora abbastanza bene a pranzo, o un bar che comunque fino alle 18 riesce a fatturare la gran parte di quello che fatturava prima. Poi c'è il bar che invece va sotto perché lavorava soprattutto, diciamo, nelle ore più dalle 18 in poi, e c'è il ristorante che va totalmente sotto perché lavorava soprattutto a cena per il suo tipo di ristorante. Non sarebbe più corretto andare a vedere il fatturato di questo mese rispetto, no? Il problema è il tempo. Qui il primo fattore, diciamo, che sta guidando la scelta del meccanismo è quello della velocità dell'erogazione del rimborso per ragioni pratiche, perché se tu devi chiudere o chiudere a metà hai il problema immediato, e anche per ragioni, diciamo così, di tenuta politica sociale del provvedimento preso domenica. Quindi il fattore più critico, diciamo così, è il tempo di erogazione dei rimborsi, e l'unico modo per fare in fretta è ragionare per categorie, non per fatturati, perché questo DPCM, dici, perché se inizi a guardare i fatturati ci metti molto più tempo, deve passare il tempo, fare un'auto, sì, certo, non arriva nulla entro fine anno, mentre qui i soldi devono arrivare entro il mese di novembre. Ho capito, a costo di fare qualche, diciamo, così, ragionamento un po' più grossolano. Se non si considerano i fatturati, vengono premiati gli evasori? Beh, in questo senso no, perché comunque un fatturato fa fede, no? Quello del di marzo, di aprile? No, però non farebbe fede nella domanda. No, è uguale ad aprile, nel senso che se tu hai evaso molto nell'aprile del 2019 e hai evaso meno oppure nulla nell'aprile 2020, naturalmente la tua perdita di fatturato reale non si vede. E quindi fa testo ancora aprile, diciamo, per te, se ho ben capito. Sì, perché l'elenco è quello lì. Okay. L'elenco è quello lì. E comunque saranno la misura, diciamo così, proporzionale del ristoro dovrebbe essere fissa. Cioè, appunto, al ristorante diamo un X per cento, al bar diamo un Y per cento, alla palestra che invece chiudiamo in base al fatturato precedente, alla perdita di aprile, indicata ad aprile. Ad aprile, ho capito. Indicata su aprile. Sì, è chiaro che farai dei discrimini, perché magari c'era quello che ha perso molto ad aprile perché lavorava tanto ad aprile, e quello che invece ad aprile ha perso poco. Penso ad alcuni ristoranti, per esempio nei luoghi turistici, c'è del turismo anche a ottobre, che magari aprile fatturavano meno, è chiaro. Però se ho ben capito, l'obiettivo in questo caso è arrivare a erogare subito, non aspettare i fatturati, il crollo dei fatturati di ottobre. Sul nero, guardate che no, in realtà, perché se fa testo aprile vale anche il nero che facevi ad aprile 2019, come diceva adesso Gianni Trovati. Ho capito, l'impianto non è andare a vedere la differenza di fatturato, ma andare a dare i soldi subito senza aspettare neanche la conclusione di questo DPCM. Grazie a Gianni Trovati, vedremo poi cosa il Consiglio dei Ministri è convocato per domani. Andiamo sul traffico adesso. Focus Economia. Dunque, qualcuno mi fa notare che l'Agenzia delle Entrate la volta scorsa ha erogato in 7 giorni, in 2 settimane. Sì, ma ho capito il meccanismo, adesso ne riparleremo. Il meccanismo, intanto sono meno soggetti coinvolti, perché devi rientrare nei codici Ateco. E quindi qualcuno mi chiede, ma rientreranno anche, per esempio, le strutture ricettive che, non avendo turisti, perché anche quei pochi turisti che venivano probabilmente non vengono, a parte che è sconsigliato spostarsi da regione a regione e spostarsi se non per motivi di lavoro, ma è chiaro che magari uno poteva venire a visitare il centro storico anche da cittadino di quel comune, di quella provincia, e poi andava a cena, c'è un rischio di ricaduta sul resto. Non lo so, vedremo quali sono le categorie Ateco. In questo momento gli alberghi non rientrano nelle chiusure. Poi so benissimo che un secondo dopo mi dite, sì, ma come fanno a tenere alberghi, aperti gli alberghi, e tra l'altro gli alberghi possono mantenere la ristorazione per i loro clienti, chiaramente questo è previsto dal DPCM. Vi do la chiusura di borsa rapidamente, poi andiamo anche su GR24 e andiamo anche poi con Platerotti e Calugi a parlare da un lato dei dividendi, dall'altro delle categorie coinvolte. La borsa oggi a chiudere la giornata debole, la peggiore in assoluto è Francoforte, -3,71%, Parigi -1,90%, Dow Jones va male adesso, quasi il 3% di calo, Londra -1,20%, Milano sicuramente non è tra le peggiori, -1,76%, Inuit guadagna ma soprattutto lo 0,80, come Fiat Chrysler lo 0,70, Diasson in più 0,50. Si conferma il calo di Moncler, per cui e anche di Fiera Milano, perché insomma, le nuove restrizioni pesano su questi titoli. Per quello che riguarda il calo di Moncler del 5,24%, Nexi 4,12%, Pirelli -4%, come Buzzi Unicem, Prismia -3,30%, Eni -3%, come Leonardo, Azimut -2,80%, come CNH, Tenaris Era -2,60%, come Ferrari il 2,5% lo perde Fineco, il 2,30% Campari ed STMicroelectronics, il 2,20% il calo di Italgas, di Intesa San Paolo, di Banca Generali. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Andiamo sul GR24 e poi appunto dividendi e il mondo dei pubblici esercizi. Tutti mercoledì a 2 di denari parliamo di lavoro. Parliamo di lavoro e di lavori, di formazione e di professioni, di master e di mestieri. Tutti mercoledì parliamo di lavoro con gli esperti dell'INAP, l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche. Ospite fisso di 2 di denari con studi, ricerche, analisi e consigli. Perché parliamo di lavoro con chi si occupa di lavoro. Per capire dove va il lavoro, come cambia e come non farsi sorprendere dai cambiamenti. Programma realizzato in collaborazione con INAP, in qualità di organismo intermedio del PONSPAO con il contributo del Fondo Sociale Europeo. State ascoltando un programma offerto da Columbia Threadneedle Investments. Il vostro successo è la nostra priorità. Focus Economia. -18:09, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Molti mi hanno scritto, adesso torneremo a parlare delle chiusure, dei settori coinvolti nelle chiusure. Qualcuno mi dice, ci sono anche casi molto particolari, mi ha scritto adesso un fotografo, ma lo cito solo per far capire quanto poi sia delicato e sarà importante che i codici Ateco siano più mirati possibili, quelli per il ristoro. Mi ha scritto adesso un fotografo che fa l'80% del fatturato con i matrimoni. E immagino che le categorie del Horeca, hotel, appunto ristoranti, hotel in questo caso no, ma ristoranti e catering e tutte le attività connesse siano coinvolte. Altri mi stanno dicendo: ma guardate che tutti gli hotel che non hanno un ristorante al loro interno, che sono una stragrande maggioranza, praticamente dove vanno a mangiare i clienti? Qui stiamo parlando, immagino, di clienti per lavoro, perché il governo ha sconsigliato gli spostamenti se non necessari, però ci sono migliaia di persone che ogni giorno in Italia si devono spostare per lavoro, e anch'io mi sono chiesto onestamente dove vai a mangiare, se tu finisci, sei in giro per lavoro, hai l'albergo, e poi non so, ci sono delle cose, perché ho capito che o scegli solo gli alberghi con il ristorante interno, ammesso che ce ne siano abbastanza a disposizione, che non siano solo i più cari, diciamola tutta. Poi qualcun altro mi dice: guardi che lei non ha capito che il problema del fatturato non si può applicare, perché sennò il sud è in rivolta per il nero. Io non so se il nero venga fatto soprattutto al sud, sicuramente viene fatto anche i codici Ateco, cosa ho detto? Dico, non so se il nero venga fatto soprattutto al sud, però non è che possiamo occuparci anche di chi ad aprile del 2019 aveva fatto molto nero e quindi farà testo quel dato anche per i nuovi ristori. Ho capito il ragionamento di Gianni Trovati, che se devi andare a guardare anche i fatturati, aspettare il mese di coinvolto da questo DPCM, cioè arrivare fino al 23 di novembre, rischi di dare i ristori dopo Natale, e allora c'è l'urgenza di dare liquidità in questo momento. Sospendiamo per un attimo il tema, perché c'è un altro tema che, su cui mi hanno scritto molti ascoltatori, che riguarda anche i risparmiatori azionisti, perché hanno investito, non parlo solo dei grandi soci, ma anche dei normali risparmiatori che hanno investito magari in titoli da cassettista, perché c'è tutto un tema in Europa su che cosa fare dei dividendi, cioè quando la parte di utile che viene di solito redistribuito agli azionisti, perché l'invito è stato sostanzialmente cercate di non ridistribuire i dividendi, è arrivato a livello anche europeo, ma non solo. E la BCE ha imposto alle banche, per esempio, il divieto di distribuire, l'ho fatto a marzo, dividendi per evitare di fuoriuscire di liquidità, perché il ragionamento era: attenzione, hai bisogno di liquidità perché dovrai far fronte ai prestiti alle imprese, e questo vale fino al 31 dicembre. Non c'è per esempio un divieto esplicito per le assicurazioni, però giro volentieri, anzi prima lancio l'appuntamento con Alessandro Paterotti, poi giro a lui la domanda. Dietro la notizia. Dunque, vedo molte risposte su cosa fare negli alberghi. Vabbè, adesso vi arrivo. Alessandro Paterotti, buonasera innanzitutto, ti trovi a Sole 24 Ore. Allora, buonasera a tutti gli ascoltatori. La BCE... Ti la domanda velocemente. Sì, vai. La questione dei dividendi delle banche per noi è fondamentale per un motivo. Quest'Italia non è un paese che ha avuto un mercato di capitali. Quella è una scoperta recente. Noi abbiamo avuto un sistema bancocentrico. Questo significa che le banche fanno da puntello al sistema economico. Allora, chi investe sulle banche investe sull'economia italiana, di fatto. Dice in termini tecnici che le banche sono un proxy dell'economia italiana. Questo che significa? Che le fondazioni, che sono gli azionisti, la bandiera italiana sul capitale delle banche, delle nostre banche, perché noi non abbiamo i grandi intermediari finanziari, i grandi asset manager, le fondazioni vivono di quei dividendi. Le fondazioni a loro volta reinvestono quello che generano i dividendi nelle attività sul territorio. I centri, le bocciofi, che si diceva una volta, ma parliamo di qualcosa di più importante adesso, dalla ricerca all'università, ad altre attività fondamentali per lo sviluppo economico. Senza quei soldi non vanno avanti. Non solo, le banche è vero che sono costrette a bloccare i dividendi perché serve la liquidità per i prestiti, ma è vero fino in parte. Nel senso che il divieto di distribuzione dei dividendi è stato imposto dalla BCE perché? Perché il loro presupposto è che i profitti delle banche europee degenerano gli acquisti della BCE e la liquidità garantita. Allora dicono: questo è un regalo, lo tieni e ti rafforzi patrimonialmente, visto che questo utile lo stai facendo con noi. In realtà il rischio rimane sulle spalle alle azioni bancarie, quindi è vero relativamente quello che dice la BCE, ma è importante per l'Italia per un motivo, perché noi purtroppo oggi prendiamo il 90% del nostro fabbisogno di denaro, le nostre banche hanno il 90% del funding, si chiama in termini tecnici, dalla BCE, cioè noi dipendiamo totalmente da quei soldi. Allora è più difficile riuscire a resistere a quel tipo di pressioni, soprattutto che sono sia del regolatore, quindi dell'EBA, che poi a livello più politico sono sulle banche italiane quanto a solidità patrimoniale. Quindi è un discorso molto importante che riguarda soprattutto l'Italia, perché è il paese che ha più banche e sportelli di tutti. Senti, per concludere Alessandro, il tema invece non c'è un obbligo per il mondo assicurativo. No, perché le assicurazioni sono considerate intermediari non bancari. Sono intermediari finanziari, ma non bancari. Tutta la regolamentazione che è stata fatta finora, dal dopo crisi del 2008, quella che doveva rendere più solidi i mercati, che cosa ha fatto? Ha isolato il sistema bancario come elemento di rischio per l'economia e per i paesi, per la stabilità del sistema. Però allo stesso tempo ha liberato completamente le forze, le briglie a tutto il settore che non è bancario, ovvero assicurazioni, fondi di investimento, fondi di private equity, hedge fund, quelli che una volta chiamavamo le famose banche ombra, la finanza ombra. Beh, adesso è fuori dall'ombra, ma sono loro. Quello è il grande nido del debito mondiale, perché appunto non dovendo sottostare alle regolamentazioni del credito, riescono a fare operazioni di finanziamento che vanno fuori controllo e prive totalmente di quei parametri che sono invece imposti alle banche. Sì, chiaro anche questo. Allora, io adesso vado sul traffico, ringrazio Alessandro Patriotti che troveremo lunedì prossimo, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Parliamo poi con chi rappresenta i pubblici esercizi, voi capirete quanto incavolati sono. Mi scrivono alcuni ascoltatori, guardate che gli alberghi senza ristorante possono organizzarsi con il delivery, quindi col cibo da asporto dei vari ristoranti. Sì, perché anche questo è vero. Immagino che alcune soluzioni saranno anche queste. Andiamo sul traffico. Focus Economia. :18:19. Dunque, mi sono arrivati dei messaggi adesso. Questa sera i commercianti di Napoli resteranno aperti oltre le 23 e tutti i cittadini sono invitati a fare una specie di notte bianca a Napoli, comprate senza e solo in contanti, senza emettere scontrini. Mi sembra una follia. Guardi che è un reato non emettere lo scontrino per i commercianti. Detto questo, vale anche per i vari esercizi. Allora, il ministro Gualtieri sul ristoro, visto che ne abbiamo parlato prima con Gianni Trovati, ha detto i ristori dovrebbero riguardare 300-350.000 aziende e arrivare entro metà novembre. Ma le aziende sono molte, sono più di 300.000, forse 350.000. Tutte le aziende e gli esercizi pubblici che sono oggetto delle restrizioni introdotte dal DPCM, che sono, sappiamo, di chiedere un sacrificio importante, necessario a contenere il virus, e quindi per tutti costoro ci saranno questi indennizzi che sono poi solo una parte delle misure, perché poi avremo in realtà per 3 mesi il credito d'imposta sugli affitti, l'eliminazione della rata IMU e poi naturalmente la cassa integrazione per i lavoratori e anche l'erogazione dell'indennità di 1.000 euro per i collaboratori. Pensiamo di poter erogare, che l'Agenzia delle Entrate possa erogare questi contributi già entro metà novembre, forse persino entro l'11 novembre, perché si userà lo stesso meccanismo già utilizzato per il vecchio fondo perduto e quindi tutti quelli che hanno già fatto domanda e avuto questi contributi lo riceveranno in automatico. Dunque, una precisazione la devo dare a un ascoltatore che dice: ma guardate che se i ristoranti sono chiusi come si fa a fare asporto? No, attenzione, il DPCM prevede che l'asporto possa essere fatto, delivery e asporto, fino a mezzanotte. Chiaro, poi questo non vale per esempio in Lombardia, dove tu hai coprifuoco dalle 23, perché se poi non puoi girare al massimo devi andare entro le 23. Comunque, allora, Roberto Calugi, direttore generale della FIPE, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, buonasera. Buonasera a lei, Barisoni, e ai suoi radioascoltatori. Dunque, l'impatto stimato delle misure sono 3 miliardi per il settore dello sport, i pubblici esercizi, più o meno 340.000 attività, danno stimato in 2 miliardi e 700 milioni di euro, la stima è proprio vostra, poi con il diretti ha stimato in un altro miliardo il danno per la filiera agroalimentare, soprattutto per quello che riguarda i ristoranti, immagino. E mentre 90 milioni è il danno per il settore degli spettacoli. Però, visto oggi il presidente di Confcommercio Sangalli, dice: attenzione, la perdita complessiva di 17 miliardi di euro, un punto percentuale di PIL nel quarto trimestre, questo come conseguenza non solo della ristorazione ma anche del turismo. Le chiedo, voi rappresentate tutti gli esercizi pubblici, i pubblici esercizi, però c'è palesemente una differenza di danno, sempre di danno parliamo, tra un bar in cui molte categorie possono rientrare a fatica, ma possono ancora avere un danno più contenuto dalla chiusura alle 18, rispetto alla ristorazione, dove molti ristoranti non aprono proprio, se devono aprire solo per pranzo. Ma in linea teorica sì, ma stiamo veramente parlando di ipotesi, diciamo così, non voglio dire di scuola, ma insomma in ogni caso di differenze abbastanza marginali. Barisoni qua oggettivamente fra un bar lavora anche lui con i pranzi, lavora anche lui con gli aperitivi, quindi adesso è certamente vero quello che lei diceva, però certamente la botta è forte anche per la categoria dei bar. Poi certo possono fare le colazioni, sempre che qualcuno dopo un mese in cui praticamente i bar e i ristoranti sono stati additati come luogo del terrore, e così non è. Io continuo a sostenere che, visto che ci hanno aperto il 18 di maggio e a giugno e a luglio non abbiamo avuto dei picchi pandemici, forse le cause del ritorno della curva vanno trovate in altri fattori, che ne so, la riapertura delle scuole o il sistema dei trasporti. Quindi la mazzata è veramente forte, perché quei 2,7 miliardi non è che scendono oggi dal cielo su un sistema florido, scendono su un sistema che quest'anno ha perso 27 miliardi a causa della prima situazione. Quindi davvero qui c'è il rischio, lo dico, guardi, davvero, a volte anche intervenendo in trasmissione magari uno enfatizza un po' i termini, ma qui realisticamente, vedendo anche quello che sta succedendo in giro per l'Italia, se non si interviene subito concretamente c'è il rischio davvero della morte di un intero settore, e stiamo parlando, perché è importante che i radioascoltatori comprendano bene i numeri, stiamo parlando di chiudere, sono a rischio chiusura prima di questo DPCM, quindi oggi forse anche qualcosa in più, 50.000 imprese, perché poi i bar, i ristoranti, le società di catering, le discoteche sono innanzitutto imprese. Stiamo rischiando di mettere in mezzo a una strada 300-350.000 persone che lavorano in questo settore. Allora, per questo l'intervento del governo, io ho ascoltato con interesse le dichiarazioni del Presidente del Consiglio, ma anche quelle del Ministro Gualtieri e del Ministro Patuanelli rispetto ai ristori. Adesso sembra che dovrebbe uscire domani un decreto legge in proposito, leggeremo con interesse le misure, perché è davvero in questo caso, ecco, vitale. Quello che prima anticipava Gianni Trovati, adesso vedo che c'è un flash d'agenzia, domani il Premier Conte incontrerà le categorie più colpite dal DPCM, quindi Confcommercio, Confesercenti, i rappresentanti delle associazioni di palestre e piscine, e poi ANIC, AGIS e ANEC, quindi cinema e spettacolo. Quello che prima ricordava Gianni Trovati è che probabilmente per snellire i tempi non si chiederà più di andare a valutare, cioè di aspettare fino alla differenza di fatturato rispetto all'anno scorso, perché devi arrivare a questo punto almeno fino al 23 di novembre, ma chi era già inserito nei codici, che ha avuto il ristoro da aprile, riceve in automatico il finanziamento. Cioè, per voi in questo momento è più importante la variabile tempo rispetto a qualunque altra variabile, perché sennò se uno deve andare a guardare i fatturati, stabilire, si rischia di arrivare a Natale o oltre. Beh, assolutamente sì, la variabile tempo, ma lo diciamo da sempre. Non vuol dire non guardare i fatturati, vuol dire per prendere la lista di aprile, di chi era rientrato in aprile, e procedere almeno in automatico con quelli, prego. Sì, in verità quello che ci sta arrivando come segnale è che addirittura dovrebbero essere dei rimborsi superiori a quello che è stato fatto per il mese di aprile, soprattutto per quelle categorie che sono, diciamo, obbligate alla chiusura, come appunto l'intrattenimento e almeno per questo periodo per quanto riguarda la ristorazione. Quindi speriamo che sia anche uno sforzo maggiore, perché qui il vero problema, guardi, se faccio un esempio molto semplice sui canoni di locazione, non si è ancora riuscito a intervenire su una possibilità di rinegoziazione a ribasso dei canoni. È del tutto evidente che oggi non si riesce a sostenere un costo di questo genere, e non lo riesce a sostenere neanche un bar che, come ricordava lei prima, riesce magari a lavorare fino alle 6. I ristoranti assolutamente no, perché tenere aperto un ristorante solamente a pranzo in assenza di turismo, con lo smart working al 100%, e non entro nel merito dei problemi sanitari, quello non è competenza mia, è evidente che tenere aperto un ristorante il prossimo mese è un atto, non voglio dire quasi eroico, ma poco ci manca. E quindi attendiamo domani, voi chiedete la velocità e anche appunto ristori più alti. Ho visto che Renzi, per concludere, Calugi ha detto, poi criticato da Zingaretti, bisognava tenere bar alle 18 e ristoranti almeno alle 22. Le sarebbe sembrata una scelta più coerente, più articolata? Ma ovviamente i nostri vogliono lavorare, questa è la prima richiesta, no? I nostri sono persone che stanno da quando erano ragazzini a bottega dalla mattina alla sera e vogliono la dignità del lavoro. Il punto però, e mi chiedo, se la comunicazione è sempre una comunicazione di allarme. È evidente che la sera nei ristoranti, adesso lei frequenta Milano, immagino che anche le ultime sere a Milano, anche se si poteva lavorare, non credo ci fosse il fenomeno. Sì, oddio, adesso che Luigi, poi domani vedremo cosa deciderà il governo. Sì, la comunicazione di allarme, però devo anche dire che i numeri sono d'allarme, perché io posso capire, non ho problemi a accettare la critica, usare i numeri, i raffronti più possibile, le percentuali, non fidarsi solo dei tamponi, perché dipende da quanti dei positivi, da quanti tamponi, però oggettivamente sta curva è d'allarme. Però io le per cui non è che la stampa sia solo la stampa, casomai fa la cassa di risonanza, ma di numeri veri, perché sennò nessuno aveva voglia di tornare a chiudere nulla. Facciamo una cosa, Calugi, io e lei ci risentiamo dopo che il governo vi ha incontrato, il Presidente del Consiglio, domani, e vediamo le misure prese, così ci dà un commento anche più articolato sulle misure. Grazie intanto anche al Direttore Generale della FIPE, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.